140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Chateau Montfort, Milano. Dopo 15 sold out in America, partono con il tour europeo e un omaggio ai mitici tre tenori. Sono Il Volo, ragazzi da esportazione. L'America ci ha regalato grandi emozioni e dalla data zero di Rock Arase abbiamo visto che anche il pubblico italiano non è da meno, ma anzi, il calore di casa è sempre quello più affettuoso, più sincero e tutto. Perché si avvicina l'estate e farà molto caldo, quindi serve essere calorosi, soprattutto in quel periodo dell'anno. E poi soprattutto poter cantare in posti prestigiosi come l'Arena di Verona, il Teatro Antico di Taormina, per nominarne alcuni, che sono posti che abbiamo solo in Italia. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore. Amore, solo amore, è quello che sei. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Cosa sceglierete in questi concerti? Si chiama Notte Magica Tributo ai Tre Tenori Tour, quindi sicuramente sarà il concerto che abbiamo registrato e cantato a Firenze, con Placido Domingo, ma non ci sarà in Italia, e sarà un repertorio classico, ma adesso Piero vi spiega le novità e le sorprese che abbiamo preparato per questo concerto. Sicuramente, come ha detto Ignazio, canteremo il repertorio dei tre tenori, quello registrato a Firenze, però non possiamo non riservare delle sorprese per il nostro pubblico, ovvero canteremo per loro l'Ave Maria Mater Misericordia, che fa parte del nostro album Notte Magica, ma che non abbiamo cantato nel concerto a Firenze. E soprattutto ci sarà un grandissimo regalo, ovvero una versione completamente sinfonica con 68 elementi di orchestra di Grande Amore. Quindi ragazzi, dopo il finale con Libiamo negli Lieti Calici, noi usciremo, voi dovete ancora gridare fuori, fuori, fuori, noi ritorneremo con un bis, Grande Amore. A notte alte sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io, ti perdo. Yeah. che se incontrassi un angelo direi non mi fai volare in alto quanto lei. E notte alte sono sveglio e mi rivesto e mi rispoglio. Mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa. Bravissimi, anche con un grande cuore, avete anche un bel progetto di solidarietà umanitaria, mi è piaciuto molto sentirlo sì, da voi. A pochi giorni avremo un'udienza privata col Papa. Sarà un grande onore e piacere sicuramente, soprattutto per una persona così carismatica. E presenteremo ecco, questo progetto con la canzone Ave Maria Madre Misericordia. Ed ecco, entro fine anno realizzeremo questo progetto con la Caritas in via della conciliazione con tutti i poveri di Roma e del centro Italia. Ecco. Per rendere una notte magica anche a loro. Ecco. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, grazie. Crepi il lupo, crepi il lupo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Il Volo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.